Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Noduli alla tiroide. Una persona su tre potrebbe svilupparli nel corso della vita, sono quindi frequenti, ma se sono piccoli non devono destare preoccupazione, basta controllarli. A Obiettivo Salute il professor Enrico Papini, direttore della struttura complessa di endocrinologia e malattie del metabolismo all'ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale. I noduli di piccole dimensioni sono un riscontro estremamente frequente e in genere del tutto fortuito, non costituiscono una minaccia per la salute né per il benessere della persona. È necessario pianificare un controllo ecografico a distanza di 1 o 2 anni dalla scoperta e se il nodulo, come il più delle volte accade, rimane stabile, sarà possibile fare dei controlli a distanza molto maggiore. Solamente quella minoranza di noduli che dovesse accrescersi dovrà essere valutata più accuratamente e solo se si accresce e ha delle alterazioni strutturali di rilievo ecografico potrà essere necessario un approfondimento con un ago aspirato. Ipertrofia prostatica, la cura arriva da una palma, l'estratto esanico di Serenoa Repens. Se ne è parlato al 90° congresso nazionale della SIU, che è in corso a Napoli, e a Obiettivo Salute il professor Vincenzo Mirone, andrologo, ordinario di urologia all'Università Federico II di Napoli e presidente della Società Italiana di Urologia. Serenoa Repens è un estratto di una palma sudamericana che svolge un'azione antinfiammatoria estremamente importante, soprattutto in tutta la componente infiammatoria, appunto, che abbraccia sia l'ingrandimento della prostata, sia l'infiammazione prostatica del giovane e spesso addirittura anche nella presenza del cancro della prostata. Quindi stiamo parlando di un rimedio vecchio, ma che oggi abbiamo posizionato in maniera molto più precisa, esattamente proprio nei processi infiammatori cronici della prostata, che sono estremamente complessi, oltre che tra l'altro estremamente fastidiosi per l'uomo, non solo che invecchia, ma anche spesso per il giovane. E sempre dal congresso gli urologi lanciano un allarme: per il 40% delle cistiti, così come per altre infezioni del tratto urogenitale, c'è un uso inappropriato di antibiotici che rischia lo sviluppo di resistenze. Sulle pagine di Obiettivo Salute il professor Mirone ci spiega come si affronta una cistite. Tra poco vi aspetto in diretta Facebook insieme al professor Claudio Mencacci. Alla vigilia della Giornata Mondiale della Salute Mentale commenteremo alcuni dati emersi dalla Società Scientifica degli Psichiatri, uno su tutti. La depressione fa perdere il 25% di giornate di lavoro, bruciando ogni anno, pensate, $1 trilione. In Italia 6 milioni di italiani accusano stress da lavoro, più colpite le donne. Anche voi avete avuto a che fare con il mal di vivere? State ancora lottando? Ne siete uscite? Parliamone insieme, io vi aspetto. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 continua con Melog. Io vi aspetto in diretta video, un saluto e buona giornata da Nicoletta.